giuro, ma no, giammai, perché a me stesso celar non posso in qual fatale oggetto son rapiti miei sensi. O tu, la di cui fronte al serto aspira, o mia Matilde, io t'amo, t'adoro, e l'onor mio per te. Il dover, la patria, il padre oblio, contro la micidial valanda, io fui di scudo a giorni tuoi. Figlia di regi, io ti salvai da morte, te che al trono destina, empia mia sorte. Ebbro di vana speme il cor che per te langue, tutto per gli empi prodigò il suo sangue, aver comunque onessi la gloria delle pugne, ecco la mia vergogna, i pianti miei l'ampero cancellata, ma me la rende una passione ingrata. Ma qual suon? E il superbo i rei seguaci scendono dal monte. Oddio, ivi è Gessler, e segue l'idol mio. Felice ancora.